No vas a querer de dolore. Non te va a quedar. Non dovrás te avvicinare. Oh. Che da bocca senza labbro. Oh no. Non si vede cosa sogno. Ora va perché la foca. Non vaso che non ti dolore. Nient'altro ti posso rare. No, no.